Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Ci sarò io oggi con voi, ma insomma non vi preoccupate, questa volta la sostituzione non sarà lunga. Sebastiano Barisoni torna domani. 349-238-6666 per i vostri sms. Di cosa parleremo? Beh, naturalmente torneremo sulla legge di stabilità. Ci sono gli emendamenti, tra oggi e domani ci sarà la sforbiciata naturalmente di questi emendamenti sotto la mannaia, per così dire, della inammissibilità degli emendamenti medesimi e quindi le proposte di modifica alla legge di stabilità. Si discute di tante cose, ossia a partire da questa idea di elevare da 8 a 12 mila euro la no tax area. Attenzione, non si sta parlando di eliminare la tassazione sui redditi sotto i 12.000 euro, meglio non solo di questo, ma di innalzare la no tax area, cioè quella quota di reddito sotto la quale appunto non si viene tassati. Quindi è un, come dire, sarebbe un provvedimento che riguarderebbe tutti indistintamente, non solamente i redditi bassi. Insomma, se si guadagna 1 milione di euro fino a 12.000 euro non si è tassati. È per questo che tutti stanno dicendo, poi sentiremo anche le voci in merito, compreso il viceministro Fassina, no, attenzione, questa cosa costa troppo e non si può fare. Ma parleremo di legge di stabilità anche sotto un altro aspetto, perché ci sembra che ancora una volta, ne discuteremo con una persona che se ne occupa da tempo di questi temi, un docente di sociologia economica che ha scritto un libro che si intitola Partite IVA, edito dal Mulina. Ci sembra che ancora una volta una manovra economica non tenga nel dovuto conto, riservi scarsi provvedimenti a quel mondo che rappresenta circa il 25% della forza lavoro italiana, che è quello che viene malamente chiamato il popolo delle partite IVA e che sono un po' tutti i lavoratori autonomi. Proprio poca attenzione oggettivamente. Tra l'altro dovranno sottostare questi lavoratori autonomi ad un innalzamento dei contributi a partire dal gennaio 2014, ne è stato promesso il congelamento. Parleremo anche di questo. Poi ci occuperemo di banche. Al di là del fatto che oggi ci sono delle cose interessanti che arrivano da Banca Italia, ve le riferirò tra poco, parleremo di Carige. Perché all'indomani dei conti dei 9 mesi archiviati con un rosso di 1.300 milioni a seguito di rettifiche sugli avviamenti, poi c'è insomma tutta la vicenda che riguarda Carige, faremo un punto su tutto questo e ci occuperemo anche di altro, di un'azienda, Piaggio Aero Industries, la quale ha fatto un aumento di capitale e ha visto l'ingresso di 2 grandi investitori esteri, insomma un paese che in genere gli investimenti tende a non attrarli, in questo caso evidentemente li ha attratti, parliamo di investitori indiani e investitori arabi, ne parleremo con l'amministratore delegato. Tutto questo tra poco, vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta via sms, il 349-238-6666, come sempre le notizie in breve di oggi. E no, Barisoni non si è rotto un'altra gamba, lo dico a chi ci sta scrivendo, insomma, no, no, non se l'è rotta, ragazzi, poverino. Non gliela tirate nemmeno. Non vi ho detto come stanno andando i mercati, piuttosto deboli oggi, FTSE MIB meno 0,38%, FTSE All Share meno 0,35%, va un po' peggio il resto d'Europa. Francoforte, anzi Parigi c'è dello 0,44%, Francoforte va un po' meglio, meno 0,27%, Londra meno 0,22%, l'America con il Dow Jones che c'è dello 0,19%, il Nasdaq lo 0,16%. Materie prime, come sempre, a questo punto in apertura, oro stabile a 1.282 dollari l'oncia, petrolio in calo, tanto il WTI, o meglio, no, il WTI è in calo dello 0,26%, a 94,89 dollari al barile. Il Brent, con consegna a dicembre, sale dello 0,44% a 106,8 dollari al barile. La Banca Centrale Europea, dopo il taglio dei tassi della settimana scorsa, ci sono un paio di dichiarazioni da questa giornata. La prima arriva da Ewald Nowotny, che è uno dei membri del board della BCE ad una conferenza a Vienna. Dice che la prospettiva di deflazione non è imminente, ma i banchieri centrali devono monitorarla. Nowotny ha anche detto che all'interno del board della BCE, del direttivo della BCE, non esiste una spaccatura tra il fronte del nord e il fronte del sud. Vorremmo tanto credergli. In realtà arriva una dichiarazione che sembrerebbe confortare questa tesi, è quella di Jörg Asmussen, che è membro tedesco del board della BCE, che dice: a seconda di come si svilupperà l'inflazione sui tassi di interesse, non siamo ancora alla fine delle nostre possibilità. Asmussen, che quindi sembra non escludere in linea di principio nemmeno tassi negativi. Con una simile decisione, aggiunge però, starei molto attento perché sarebbe un segnale dal forte impatto, e ha citato il caso danese dove le banche locali hanno scaricato sui clienti i maggiori costi. L'Italia. Dall'Italia arrivano notizie interessanti, riguardano, o meglio, non arrivano dall'Italia, arrivano dall'estero, ma riguardano l'Italia. Innanzitutto l'OCSE, che vede segnali positivi di crescita, nuovi segnali di cambiamento positivo li definisce, per la crescita in Italia, e nella zona euro continua a guadagnare slancio. Questo è quello che mostra il superindice OCSE di settembre. Trend è cambiato in positivo anche per la Francia, tendenza. Moody's dice che l'Italia torna a crescere nel 2014, ma c'è un nodo lavoro. Parla di un clima globale meno incerto. Per il 2013... anche qua, come al solito, una forchetta di previsione enorme, un calo del PIL per quest'anno tra il 2 e l'1%. Insomma, senza offesa per gli stimati analisti di Moody's, ma sono buono anch'io così. Nel 2014 fra 0 e più 1%. Però la prospettiva è migliorata, perché si attendeva una forchetta, prima era tra mezzo punto percentuale di calo e mezzo punto di crescita. Si stima però una crescita della disoccupazione che continua, attesa fra il 12 e il 13% nel 2014. Moody's esprime preoccupazione anche per i movimenti anti-euro. L'Eurozona, dice, corre un rischio considerevole di un'ulteriore escalation della crisi se il sostegno ai programmi di austerità scendesse ancora. E parla di rischi non trascurabili che in Italia e in Grecia i partiti anti-euro prendano il potere con un programma, appunto, di uscita dalla moneta unica. La Banca d'Italia, dunque. Anche la Banca d'Italia vede segnali qualitativi di miglioramento del quadro macroeconomico e cita diversi indicatori, fra i quali l'arresto del calo della produzione, il miglioramento dei conti con l'estero e l'attenuazione della debolezza del mercato immobiliare. Sono arrivati buoni segnali oggi anche dall'asta dei titoli di Stato. Scende a un nuovo minimo storico il tasso sui bot ad un anno, il Tesoro ha venduto tutti 6 miliardi e mezzo di euro di bot annuali con un rendimento allo 0,688% ed era quasi all'1% nell'asta di ottobre. Il precedente minimo storico risale a maggio, 0,703%. ed è in aumento anche la domanda. Dice la Banca d'Italia che iniziano a tornare gli acquisti di investitori esteri sui titoli di Stato italiani. Questo nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria. I titoli detenuti da non residenti dovrebbero ritornare sopra i 570 miliardi di euro, tornando ai livelli di inizio 2012. E le banche italiane iniziano a cedere una parte della massa di titoli di Stato in portafoglio, che hanno sfiorato i 400 miliardi di euro in giugno. Tra luglio e settembre ci sono state vendite nette per 10 miliardi. Da ricordare però che tra fine 2011 e settembre 2013 gli acquisti netti sono stati per 150 miliardi ed erano a fine settembre pari al 10% del totale delle attività bancarie. Da dire un'altra cosa che nota la Banca d'Italia. Allora, per le banche ancora più redditizio investire in titoli di Stato che prestare alle imprese, viste le forti sofferenze sul credito, ma la situazione, avverte Palazzo Koch, potrebbe il prossimo anno mutare. E il forte aumento, dice sempre la Banca d'Italia, degli acquisti di titoli di Stato da parte delle banche negli ultimi due anni non è stato la causa della diminuzione dei prestiti all'economia ed è dovuto alla necessità di impiegare i fondi della BCE in modo da rimborsare le obbligazioni in scadenza. L'Istat, parlavamo prima di inflazione, di rischio deflazione. Bene, ci sono i dati dell'Istat di oggi. Il rialzo dell'inflazione annua ad ottobre si ferma allo 0,8% dallo 0,9% di settembre. Ha rivisto lievemente al rialzo le stime, più 0,7%. Su settembre invece i prezzi risultano in calo dello 0,2%. Le associazioni di consumatori protestano, ma insomma si sa che sull'inflazione è sempre un problema. Qua risulta del tutto inverosimile l'asserito crollo dell'inflazione ad ottobre rilevato dall'Istat, dicono Federconsumatori e Adusbef. A maggior ragione alla luce dell'incremento dell'IVA al 22% dal 1 ottobre. Da segnalare, sempre dall'Italia, altra notizia, ma ve ne ha parlato poco fa Oscar Giannino. È iniziato lo scavo della gigantesca fresa TBM assemblata negli ultimi tre mesi nel cosiddetto cunicolo esplorativo della Torino-Lione. Ci sono un po' di notizie su Telecom Italia e su Alitalia, brevemente, due casi dei quali molto vi abbiamo parlato. Catricalà, dice il viceministro dello sviluppo, lo scorporo della rete resta attuale come problema ed è quello che serve all'Italia sia per la sicurezza della rete sia per la concorrenza. E aggiunge, lo scorporo è ancora un'idea necessaria per il paese, Telecom deve metterselo in testa. Franco Bassanini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, dice che la trattativa formalmente è ancora aperta e dice formalmente siamo ancora vincolati ad un accordo di riservatezza. Naturalmente è la trattativa con il fondo strategico. Interessante che nel frattempo Vodafone investa 8 miliardi di euro, 7 miliardi di sterline in banda larga. Sviluppo e differenziazione di reti e servizi di nuova generazione. Di questi 1,8 miliardi saranno dedicati all'Italia. La questione all'Italia, lupi, dice il ministro. Nell'incontro con i sindacati non si è parlato di esuberi. Incontro oggi, attendiamo la mossa di Air France che è lo snodo fondamentale. Continua ad arrivare notizie dalla Francia secondo la quale... Secondo Air France il piano sarebbe migliorato ma non abbastanza e quindi non c'è ancora la convinzione di partecipare all'aumento di capitale. Da segnalare anche la dichiarazione della CGIL, della leader della CGIL Susanna Camusso, non ci risultano esuberi, non ci risulta un piano industriale presentato, non stiamo discutendo di questo, parliamo della conferma dell'impegno del governo perché ci sia una prospettiva positiva. E veniamo al primo tema di questa giornata, la manovra. Allora, è iniziato il lavoro in Commissione Bilancio al Senato. Oggi ha parlato il Vice Ministro dell'Economia Stefano Fassina. Dice che i vincoli di finanza pubblica e quelli di politiche economiche europee rendono irricevibile la richiesta di una terapia shock attraverso la legge di stabilità. Dice anche che il governo è disponibile ad apportare miglioramenti alla legge di stabilità, specie sulla parte che riguarda l'IRPEF, per irrobustire il potere di acquisto delle famiglie in difficoltà. Sull'innalzamento della no tax area fino a 12.000 euro dagli 8.000 attuali è stato presentato un emendamento da due distinti parlamentari, uno del PD e uno del PDL. Dice Fassina: valuteremo gli emendamenti. Un po' più duro il suo sottosegretario Pierpaolo Baretta. È interessante dal punto di vista, diciamo, politico, per carità, di portare la no tax area ad un livello più alto di quello attuale. Ricordo che oggi siamo a 8.000 per i lavoratori dipendenti e 7.500 per i pensionati, c'è addirittura una disuguaglianza. Portarla più in alto di questa cifra darebbe un sollievo importante, perché poi si riverberebbe anche sugli scaglioni superiori di reddito. Però francamente mi sembra, soprattutto indicando un 12.000 euro, una cifra probabilmente insostenibile. Faremo i conti. Così dunque Baretta. Allora, saluto Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Benvenuto Davide, buonasera. Grazie, buonasera a voi. E saluto Costanzo Ranci, docente di sociologia economica al Politecnico di Milano, autore del libro Partite IVA, edito dal Mulino. Professor Ranci, benvenuto. Salve a tutti. Perché l'abbiamo voluta e poi ne parleremo. Perché ancora una volta, come si diceva in apertura, ci sembra che la manovra economica, i provvedimenti economici messi in atto, dimentichino quell'enorme popolo che sono le partite IVA e i lavoratori autonomi. Ci arriveremo. Intanto una correzione: ha ragione chi mi scrive su Twitter, ho detto forchetta perché mi viene in mente la forchetta di prezzo, ma quando parlavo di Moody's intendevo naturalmente forbice. Sì, la forbice delle previsioni è secondo me un po' troppo ampia, un punto percentuale di PIL, abbiate pazienza. Comunque, correzione fatta, spero tutto bene. Davide Colombo, su questa no tax area che possibilità ci sono oggettive che venga innalzata? Io ho letto i due emendamenti che sono stati presentati ieri, cifrano circa 1,8 miliardi di minor gettito, quindi l'ordine di grandezza è quello lì. Teniamo conto che il cuneo da solo per l'anno prossimo cifra 1,5 miliardi, quindi è tutto dire. Insomma, la possibilità di una copertura di 1,8 miliardi ulteriore, come prevedono i proponenti, con nuovi tagli lineari sulla pubblica amministrazione non meglio precisati, secondo me non passa così com'è questa versione il vaglio dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione Quinta del Senato. Ieri il Vice Ministro Fassina aveva... Quindi detta brutalmente, Davide, li segheranno questi due emendamenti? C'è una certa probabilità che avvenga, diciamo. Diciamo che aggiungere una posta da 1,8 miliardi a una stabilità che l'anno prossimo incide per 2,7 miliardi in termini di indebitamento netto, di maggiore indebitamento netto, è una sfida. Se lo fanno devono trovare una copertura strutturale e quindi bisogna vedere come la fanno a trovare. Teniamo conto che ci sono altri problemi ancora in sospeso sull'IMU e quindi non lo so. Certamente è ambizioso come proposta. Sentiamo prima Baretta, ha detto delle cose che non quelle che ha detto il giorno prima Fassina, cioè che effettivamente porterebbe sollievo, però bisogna anche tenere conto che portare così a 12.000 euro una no tax area sull'IRPEF, diciamo, ha anche qualche effetto regressivo, perché in quei 12.000 euro ci stanno anche quelli che hanno dei redditi molto più elevati, cioè significa che per tutti, no, se la versione è questa, fino a 12.000 euro non ci sarebbe un carico fiscale, per cui con tutte le conseguenze sulla curva IRPEF, insomma. È certo. Allora, professor Ranci, voglio venire da lei perché vedo che quello che ho detto è stato già preso male da qualche ascoltatore, no? Dice: ma cosa dite? Chi ci ha rimesso di più sono i lavoratori dipendenti. Allora, sicuramente questa crisi ha avuto un impatto pesante sui lavoratori dipendenti. Stiamo parlando semplicemente del fatto che c'è un 25% della forza lavoro di questo paese che non sono lavoratori dipendenti. Chi vi parla è un lavoratore dipendente, quindi usciamo proprio da tutte le questioni personali, se così vogliamo. E però ricordiamoci che questo mondo viene regolarmente dimenticato ogni volta che si fa una manovra, professore. Sì, questo è, come dire, la constatazione che possiamo fare in questo momento. Poi vediamo se, come dire, nelle ultimi aggiustamenti qualcosa cambia, però sicuramente in questo momento le manovre, diciamo, di sollievo soprattutto, o che tendono a contenere, diciamo così, il peso fiscale, non stanno coinvolgendo in modo rilevante il mondo del lavoro autonomo. E ricordiamoci che tutte le manovre che riguarderanno il cuneo fiscale, in realtà, come dire, sostanzialmente tendono a ridurre il costo del lavoro dipendente e quindi da questo punto di vista non hanno alcun tipo di impatto realistico sul lavoro autonomo. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, 3492-386666 per i vostri sms. Tra poco ne voglio anche leggere qualcuno, però prima so che Davide Colombo ci deve salutare. Davide, dal lato di questo incremento dei contributi a partire dal 1 gennaio 2014 per quanto riguarda i lavoratori autonomi, che cosa si sa? Perché in legge di stabilità non è previsto niente, no? No, questo è, diciamo, è un automatismo previsto dalla riforma Fornero che appunto prevedeva un allineamento verso l'alto delle aliquote contributive per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti. C'è una manifestazione da parte del PD in questa fase in particolare di approfittare della legge di stabilità per introdurre un emendamento, ovviamente alla legge Fornero, che posticipa al 2014, posticipa di un altro anno questo di un punto percentuale. Appunto, è un dibattito aperto e ho visto che anche in questo caso il vice ministro Fassina si è speso molto per questa proposta. Annoto solo che, appunto, se vale come sollievo in questa fase di difficoltà perdurante per le partite IVA una ulteriore proroga, bisogna però tenere conto che stiamo parlando delle loro future pensioni, quindi naturalmente non costruisce montante per la pensione che avranno quando andranno in pensione, purtroppo. Grazie Davide Colombo, grazie, buona giornata. Caro Davide che scrive: i lavoratori autonomi sono tra i primi evasori, quindi non serve abbassare le tasse. Queste generalizzazioni non servono a nessuno e tra l'altro sono anche insensate, perché è un mondo talmente variegato, professor Ranci, che no, dire questo è proprio sbagliato anche tecnicamente, dico. Diciamo che sicuramente, come dire, delle aree di evasione fiscale nel mondo del lavoratore, ma in Italia ci sono, non è che possiamo dire che questo non accada. Accade, però penso che in buona parte non riguardi i lavoratori iscritti alla cosiddetta gestione separata, INPS, che sono quelli in questo caso, diciamo, sotto l'occhio del ciclone, legati all'aumento della contribuzione che è prevista per questi specifici soggetti, quali per diverse ragioni non sono i soggetti principalmente, diciamo, imputabili di evasione. Ecco, dove l'evasione forse diventa più forte in altri mondi del lavoro autonomo, forse molto più nel commercio, nel piccolo commercio, in alcune aree, diciamo, del lavoro autonomo un po' più organizzato, dove in parte anche chiaramente nel mondo dei professionisti, che però già godono, dal punto di vista previdenziale di aliquote contributive notevolmente più basse, i professionisti iscritti a ordini professionali, avvocati, ingegneri, eccetera, architetti per esempio, pagano il 14% in media e gli iscritti per esempio invece alla gestione del commercio, dell'artigianato, hanno aliquote tra il 22 e il 24%. lavoratori a gestione separata in questo momento hanno un'aliquota al 27,72%. Senta, professore, io vorrei portarla però anche sul tema un po' più generale. In questi giorni abbiamo visto dei dati che non so quanto siano collegati a questi problemi, anzi probabilmente no. Dal 2008 al giugno del 2013 hanno cessato l'attività, ha scritto la CGIA di Mestre, ben 400.000 lavoratori indipendenti. Ci sono dati oggi della CISL e poi sentiremo qualche voce dall'indagine del CAF CISL emersa oggi anche su altri temi, su temi fiscali, che dicono che in un anno si sono perse 21.000 partite IVA. Quello su cui mi interrogo in questo momento è questo difetto di rappresentanza, evidentemente anche di rappresentanza politica, che hanno i lavoratori autonomi, che pure, ripeto, tanta parte della forza lavoro di questo paese rappresentano. Certo, questo è forse uno dei nodi, perché anche il problema delle aliquote contributive o per esempio il fatto che l'arretramento del numero di partite IVA registrata dagli dati usciti nell'ultima settimana, per esempio quelli della CGIA di Mestre, sono tutti dati che evidenziano l'esigenza di disporre non solo di sistemi di sostegno, ma anche sistemi di protezione, di soprattutto dei soggetti più vulnerabili. Quindi sicuramente il tema si pone di una rappresentanza maggiore degli interessi di queste categorie. La questione della contribuzione al 28 e poi dovrebbe andare entro il 2018 al 33%, e come diceva prima giustamente Colombo, è una questione politica, non è soltanto il fatto di trovare i soldi e rinviare la discussione o congelare la discussione di un anno. Il problema è il nodo è politico, ed il nodo è questo, che la riforma Fornero proponeva a questo mondo del lavoro autonomo una sorta di patto, dicendo: vi facciamo pagare un po' di più, ma in cambio noi vi assicuriamo una pensione, un sistema pensionistico sostanzialmente simile, equivalente a quello valevole oggi per i lavoratori dipendenti, portando l'aliquota al 33%. E questo è il problema, è questo un tipo di patto che ai lavoratori autonomi conviene, che risponda alle loro esigenze di oggi o no? Io ho qualche dubbio, perché il problema della pensione per lavoratori autonomi implica comunque una continuità reddituale, una solidità dell'attività lavorativa, che spesso soprattutto i lavoratori, come dire, a progetto, spesso i lavoratori che fanno parte appunto della categoria del lavoro, della gestione separata INPS, non hanno, evidentemente, è chiaro. Quindi restano in qualche modo, come dire, a vedere nella pensione, come dire, un obiettivo che però viene ben dopo quello principale oggi, che è quello di superare la crisi. Grazie, io la ringrazio professor Ranci per essere stato con noi. Mi sembra che il tema a un certo punto vada affrontato sicuramente, anche, ripeto, dal lato della rappresentanza politica. Allora, a chi ci scrive: penso che il droghiere del mio paese faccia massimo 10 scontrini all'anno. Va bene, lo sappiamo che ci sono delle forti sacche di evasione all'interno del lavoro autonomo, ma come avete capito non è che stiamo parlando di questi, o non solo di questi ovviamente, stiamo parlando appunto, come dice il professore, tanto per dire, dei coccopro. E poi ricordiamoci sempre che quando andiamo in un negozio o in un bar, e questa, per carità, opinione personale, quindi prendetela come volete, se non vi danno lo scontrino, chiedetelo, no? Un altro paio di note. Allora, c'è qualcuno che scrive: quando parliamo della no tax area e del 1.800.000.000 di euro che servirebbero, c'è chi scrive: beh, insomma, basta scaricare sui redditi più alti, oltre le centinaia di migliaia di euro. Altri scrivono: ma come, non troviamo 1,8 miliardi su 800 miliardi di spesa pubblica? Allora, qua, senza entrare nel merito delle singole ricette, no, sulle quali ci si può dividere, signori, sono tutte scelte politiche. Anche il taglio della spesa pubblica, il taglio di singoli capitoli della spesa pubblica, sono scelte politiche. Allora, nel momento nel quale la politica, come ci sembra che stia succedendo, riesce a guardare con un orizzonte che è di un mese, due mesi, tre mesi proprio ad esagerare, è difficile fare delle scelte che possano essere al di là di impopolari o poco popolari, ma che vadano a toccare interessi costituiti. Da una parte e dall'altra, dico, qualunque ricetta si scelga. I dati sui redditi e imposte delle famiglie italiane diffusi oggi dal CAF CISL, sentiamoli da Maurizio Petriccioli, che è segretario confederale della CISL, appunto. Il reddito complessivo del paese, già ridotto, ripeto, dalla crisi, dalla perdita del lavoro, dalle ore lavorate, dall'utilizzo di ammortizzatori sociali, viene ancora più ridotto dall'effetto delle imposte nazionali, di quelle locali, del drenaggio fiscale e soprattutto da una mancata revisione del nostro attuale sistema fiscale, con interventi che diventano assolutamente pesanti, come quelli dell'aumento dell'IVA senza nessuna restituzione, con una diminuzione dell'IRPEF. Chiuso l'ampio capitolo dedicato alla manovra e alle tasse, è il momento dei mercati. Livia Zancaner, Radio Core, Il Sole 24 Ore, ciao, come stai? Bene, grazie. Bene, buonasera. Negative oggi le borse, anche se non molto, insomma, una giornata così. Sì, oggi la giornata è stata debole, ieri le borse europee avevano chiuso con un rialzo, oggi i timori riguardano più che altro una flessione dei prezzi in Europa, visto che i dati pubblicati oggi sull'inflazione in Italia, Germania e Regno Unito hanno mostrato un calo dei prezzi, un fattore che giustifica quindi il taglio dei tassi realizzati la scorsa settimana dalla Banca Centrale Europea. In ogni caso si aspettano per questa settimana e per la prossima altri dati significativi sull'economia, e soprattutto gli occhi sono puntati sulle mosse della Banca Centrale Americana. Finmeccanica, quasi 5 punti percentuali di guadagno. Sì, diciamo che Finmeccanica è scattata a metà pomeriggio, è arrivata a guadagnare il 7%. Oggi i vertici della società hanno incontrato la comunità finanziaria a Londra e ricordiamo che il titolo ha recuperato terreno dopo aver perso quasi il 9% dal taglio delle stime per il 2013 giovedì scorso, quindi probabilmente i fondi hanno approfittato di questo incontro oggi pomeriggio dei vertici della società per ricoprirsi sul titolo. Popolare di Milano più 1,65. Popolare di Milano ha pubblicato Mi Conti sul finale di seduta, la società ha chiuso in 9 mesi con un utile netto di 134,4 milioni a fronte della perdita di 105,9 milioni dello stesso periodo del 2012. L'attenzione è focalizzata sulla governance, al momento è in corso la conference call dei vertici dell'istituto e ricordiamo che l'assemblea per il rinnovo dei vertici dopo le dimissioni la scorsa settimana del consiglio di gestione si terrà il 21 dicembre e le liste, come ha ricordato lo stesso Bonomi nella conference call, devono essere presentate tra 10 giorni. Bene, Popolare Emilia Romagna, 1,5 punti, Pirelli più 0,82, World Duty Free più 0,7, anche Enel più 0,61. Sì, Enel è andata bene, torna ai massimi degli ultimi 2 anni sulla scia della trimestrale pubblicata la scorsa settimana e soprattutto grazie alle dichiarazioni dell'amministratore delegato Fulvio Conti, che ieri ha annunciato un calo del debito a 40 miliardi di euro, meglio delle attese quindi per la fine dell'anno. Oggi inoltre ricordiamo che sono arrivati giudizi positivi degli analisti, in particolare Morgan Stanley. Secondo la banca d'affari, Enel tratta sconto del 17% rispetto ai concorrenti europei e quindi il titolo è sottovalutato e potrebbe crescere. Titoli in negativo, A2A innanzitutto meno 3,3%. Sì, allora diciamo che A2A inizia a risentire del ribasso delle stime sul 2014 da parte degli analisti che stanno rivedendo appunto le loro stime di consensus. Oggi la banca d'affari Goldman Sachs ha ribadito l'acquisto di vendita sulle azioni, considerando che il loro prezzo obiettivo indicato a 0,67 euro è inferiore alla quotazione attuale del titolo che aveva chiuso ieri sera a 0, un soffio dagli 0,87 euro e al momento quota 0,84. Azimut meno 2,21. Sì, Azimut ha continuato a perdere terreno dopo le vendite di ieri, il titolo appunto ha perso oltre il 2%, ieri la società ha collocato un bond da 250 milioni di euro, bisogna dire che comunque la scorsa settimana le azioni avevano fatto bene anche per i dati positivi pubblicati prima del weekend, venerdì scorso. Anche negativa, anche Generali, meno 1,77. Sì, Generali ha risentito del collocamento dell'1,3% detenuto, la quota detenuta da Intesa San Paolo, il collocamento è avvenuto a un prezzo di 16,6 euro contro i 16,94 della chiusura di ieri. I timori del mercato sono anche quelli che altri investitori potrebbero cedere azioni della società, anche se probabilmente non a breve, ma nei prossimi mesi. Ancora e brevemente, allora Saipem meno 2,13, ST Microelectronics meno 1,87, Telecom Italia meno 1,67, Naris 1,5% di calo, in 20 secondi Atlantia. Sì, allora Atlantia, la notizia è che la famiglia Toti ha collocato l'11,6% di Gemina che è controllata di Atlantia, quindi ne risentono anche le azioni appunto della società, che a inizio dicembre si fonderà con la stessa Gemina, quindi praticamente da inizio dicembre avremo solo una società. Ed eccoci di nuovo, buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia. Naturalmente mi segnalate che ho omesso di dare un po' di titoli, come si fa sempre in questi casi. Bene, allora chiudiamo. Gran parte vi sono stati dati, ancora Enel guadagna lo 0,6%, così come CNH, così come Parmalat, Buzzi Unicem più 0,46, Enel Green Power più 0,3, Terna più 0,22, Mediaset più 0,2, lo 0,1 Mediobanca e Tots, lo 0,08 Mediolanum, praticamente in pareggio, così come Ansaldo, così come Unicredit, appena sotto la parità. E appena sotto la parità Banco Popolare ed Exor, Snam meno 0,26, UbiBanca meno 0,32, Campari meno 0,39, Prismia meno 0,43, meno 0,4, Fondiari Assai, mezzo punto percentuale di calo per G-Tech, Autogrill meno 0,61, Luxottica meno 0,7, così come Diasorin, Fiat meno 0,8, Eni, Ferragamo, un punto percentuale di calo per il Monte dei Paschi, altrettanto per Intesa San Paolo, gli altri ve l'abbiamo detti. Atlantia giù dell'1,3, Tenaris dell'1,5, titolo peggiore del listino oggi a 2A, meno 3,34%. A chi insiste con questa vicenda degli autonomi evasori, allora, è chiaro che un pezzo dell'evasione si annida là dentro, è forse il pezzo più consistente. E però ci sono tantissimi lavoratori autonomi che non possono tecnicamente evadere. Cioè, c'è gente che mi scrive, mi stanno scrivendo, probabilmente sono in macchina, spero non si siano distratti troppo, mi stanno scrivendo molti agenti di commercio che dicono: ragazzi, noi fatturiamo con le aziende, non è che c'è molto da evadere. Così come riguarda i Cocco Pro, le partite IVA che lavorano per aziende, per grandi multinazionali o anche per grandi aziende italiane, come fanno a evadere quelli? Quindi evitiamo, il concetto è evitiamo di generalizzare. Ci chiedete di come è andata Carige oggi, insomma, negativa in borsa a causa dei conti. È proprio di Carige che parliamo adesso. Fabio Pavesi, benvenuto al Sole 24 Ore, l'uomo dei casi spinosi tra le banche italiane. Come stai? Ma bene, sì. I casi spinosi aumentano purtroppo, non diminuiscono. Allora, Carige negativa a causa dei conti e poi c'è tutto il contorno della vicenda, no? Sì, la vicenda è una vicenda di conti e di bilanci allegri che finalmente, come dire, sono stati sistemati forse. È una vicenda di prestiti facili alla Genova Bene, sotto una gestione che è durata 20 anni per i Berneschi. Non mi stupisce che oggi Carige vada male in borsa, perché quando tu dichiari ieri sera una perdita di 1,3 miliardi per una banca di Genova, insomma, è una perdita colossale. È vero che quel 1,3 miliardi è una pulizia degli avviamenti. Spieghiamo un attimo: tu compri una cosa che vale 100, scopri che ne vale 20 e devi svalutarla. Hanno portato a zero questa Carige Italia, che era una mera operazione contabile che serviva a rendere i bilanci un po' più belli, insomma, rispetto alla realtà. Hanno dovuto portarla a zero, da lì il buco da 1,3 miliardi. Ma la cosa inquietante è, appunto, è che l'opera di pulizia sta continuando. Cioè, si pensava che dopo l'intervento di Banca d'Italia di quest'estate fosse finita, in realtà la scoperta è che in questi ultimi 3 mesi i crediti malati sono saliti di altri 900 milioni e sono arrivati alla cifra record di 5 miliardi. Cioè, questa banca ha in pancia il 19%, quindi uno su 5 di tutto il suo portafoglio crediti è considerato malato, cioè di difficile recupero. È ovvio che una banca in queste condizioni è messa parecchio male. Adesso c'è la svolta, è arrivato il nuovo amministratore delegato Montani da 5 giorni e ovviamente a lui starà a girare come un calzino la banca e cercare di metterla in carreggiata. Non sarà facile, anche perché il patrimonio è sceso molto. Ricordiamo che nel 2014, l'anno prossimo, l'Unione Europea farà l'esame e lo screening a tutte le banche, tra cui Carige. Ecco, se oggi lo facesse oggi questo esame, Carige non lo passerebbe di sicuro con questi numeri, questo è un dato. Allora, a me sembra complessivamente, ti chiedo di aiutarmi anche a tirare le fila su tutto questo. Allora, Carige, Banca Marche, Cassa di Riferrara, la Tercas di Teramo, lo stesso Monte dei Paschi. Mi sembra che stiano complessivamente emergendo, e questo in realtà è un bene, perché è un'operazione di pulizia che si avvia. Una serie di casi nei quali l'intreccio tra il potere locale e le banche locali è stato molto forte. Questo intreccio piano piano si sta rompendo, si sta sfaldando. Sì, per fortuna la Banca Italia ha aperto gli occhi e ci siamo accorti. Le banche in difficoltà sono banche piccole e medie. La più grande è Carige, Banca Marche è sufficientemente grande, ma abbiamo banche commissariate, sono 12 in tutta Italia, sono banche piccoline. Allora, qual è il filo rosso che le unisce? Che tu lì avevi un banchiere, un direttore generale, un amministratore delegato, che non rispondeva di fatto a nessuno, CDA spesso dormienti perché nominati dai politici locali, dalle fondazioni stesse, e quindi questo banchiere, io penso alla figura di Bianconi, direttore generale di Banca Marche, che se n'è andato con 7 milioni di buona uscita, lasciando un buco da 2 miliardi nella banca. Anche questa cosa è abbastanza scandalosa. Cioè, ti lascia uno che lascia un buco da 2 miliardi e tu gli danno buona uscita da 7 milioni. Voglio dire, e Bianconi cosa faceva? Erogava credito, anziché ad Ancona e le Marche, ad amici e vicini a Roma, immobiliaristi romani che sono poi falliti. A Ferrara finanziavano progetti immobiliari a Milano, falliti, è andata a gambe all'aria la banca. Carige finanziava la Genova Bene, finanziava persone che non andavano finanziate, ma solo perché erano azionisti della banca, tra l'altro. Tra l'altro, giusto una settimana fa, appunto, la Guardia di Finanza ha fatto un blitz nella sede di Carige a Genova, ha acquisito una serie di documenti, ci sono anche i documenti relativi a 32 fidi, complessivamente 1 miliardo di euro, quindi esatto. non proprio spicci, appunto dati a una serie di, per esempio, il Genoa Calcio. Preziosi, è uno di questi che ha ricevuto grandi crediti pur non meritandoli, perché poi si è scoperto che Banca d'Italia ha guardato le condizioni di Preziosi e ha detto questa cosa è da svalutare. La famiglia Orsero, la famiglia Rasero, cioè famiglie potenti di Genova, a cui evidentemente legame con Berneschi, alcuni erano anche azionisti della banca, quindi c'è questo doppio conflitto di interessi. Io sono azionista della banca e ottengo dalla banca condizioni di favore. Genova non è finita, perché il dramma vero è la fondazione Carige assomiglia alla fondazione MPS, cioè ha il 47% della banca, non ha altre attività, cioè la sua vita dipende da Banca Carige. Ebbene, la fondazione Carige, il valore del suo patrimonio è legato per il 90% al valore della banca. Il problema è che Carige dice che la banca vale 1,35 euro, oggi in borsa credo che valga 50 centesimi. Allora, anche quel bilancio lì è fittizio, perché chiunque lo legga sa che quel patrimonio da un miliardo probabilmente ne vale 300, perché il giorno che o la banca recupera il 100% di valore, quindi la fondazione dorme sonni tranquilli, ma se questo non accade, la fondazione, anche quella è praticamente fallita, come è successo a Siena. Quindi questo intreccio pericoloso chiama anche in gioco il ruolo delle fondazioni. Fondazioni spesso emanazioni della politica locale e che concentravano, come dire, la loro attività unicamente sulla banca. Errore grave, perché se la banca va male salta anche la fondazione, insomma. Allora, Fabio, mi sembra che abbiamo dato un quadro, spero, abbastanza esaustivo per i tempi che abbiamo naturalmente in questa trasmissione della situazione. Continuate a leggere Fabio Paesi e tutti gli altri colleghi della Finanza sul Sole 24 Ore con tutti i dettagli su queste vicende. Ci chiedete perché di Carige si parla meno che del Monte dei Paschi, perché il Monte dei Paschi era la quarta banca del paese, insomma, non, certo, è che sia, cioè, la dimensione è decisamente diversa. Ancora in tanti che scrivete sul tema partite IVA, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, il solito schema di divisione. Allora, la mia impressione è che né da una parte né dall'altra si conosca abbastanza il mondo di una parte dell'altra. Mi scrive per esempio un ascoltatore: spiegate che con gli studi di settore non si evade, anzi spesso si paga qualcosa in più perché non sono aggiornati con l'andamento della crisi. Ora guardate, qua non è che si vogliono difendere i lavoratori autonomi a tutti i costi, però io vi raccomando semplicemente di non fare generalizzazioni. Vogliamo parlare anche di quanti lavoratori dipendenti, ma lo dico col massimo della tranquillità, nel senso che mi dispiace, però succede anche questo, di quanti lavoratori dipendenti, per esempio, facciano un doppio lavoro in nero, anche tra i dipendenti pubblici? Insomma, sono ragionamenti un po' più complessi di così, di dire sono tutti evasori e noi non possiamo evadere. Semplificare non fa bene, semplificare troppo naturalmente, un po' sì, e questo è anche il nostro mestiere. Parliamo di un'azienda italiana ora, perché si è concluso oggi con un rafforzamento dei soci stranieri l'aumento di capitale di Piaggio Aereo Industries. Saluto Alberto Galassi, amministratore delegato dell'azienda, benvenuto, buonasera. Buonasera, grazie mille. Allora, aumento di capitale e ingresso nel capitale di due gruppi stranieri, no? Beh, guardi, in realtà l'ingresso è stato nel 2008. Prima nel 2006 entrò Mubadala, che è il fondo strategico del governo Abu Dhabi, e nel 2008 entrò Tata Limited, che è una società del gruppo Tata. Oggi più che ingresso lo chiamerei un rafforzamento, nel senso che è un aumento di capitale molto consistente. Il capitale di Piaggio Aereo era di 116 milioni, oggi è cresciuto di 116 più 190, quindi superiore all'esistente. Rafforzamento che, se mi permette, è stato più difficile che l'ingresso, perché l'Italia del 2013, ahimè, non è l'Italia del 2008 e del 2006. Quindi avere soci stranieri che decidono di continuare a investire in un'azienda italiana in questo modo, credendo A, al nostro programma di sviluppo, B, al nostro paese, beh, mi credo, è stata un'impresa sostanzialmente titanica e ci è voluta una buona dose di fortuna, me lo permetta. Allora, voi che cosa fate sostanzialmente adesso? Avete un settore cosiddetto executive, no? Quindi dedicato, insomma, alla clientela business, e poi state entrando nel settore difesa? Sì, corretto. Noi abbiamo vissuto principalmente di tre attività. La prima era l'attività di revisione e manutenzione motori, lavoriamo per Augusta, lavoriamo per Ermacchi, su licenze di motori di fornitori stranieri. Poi facciamo l'aereo executive, che è il velivolo più importante, P180 avanti 2, quello che ci ha dato sostanzialmente un po' di notorietà e ci ha anche contribuito a crescere negli anni passati, però con la crisi del 2008 i volumi sono scesi a precipizio. E abbiamo diversificato nella difesa, ma una difesa un po' diversa come possiamo pensare la difesa, cioè noi non facciamo velivoli da combattimento, né siamo né certificati né abilitati e onestamente non siamo capaci di farlo, però nella sorveglianza sì, che è un aspetto importante della difesa, e nell'intelligence. Quindi la nostra macchina, nelle due versioni, pilotata e non pilotata, e questo forse è la grande novità, è una macchina competitiva in un settore che oggi è di piena attualità, che è il pattugliamento marittimo, costiero. L'intelligence e la sorveglianza sono una delle priorità a cui l'Europa oggi non è ancora stata in grado di rispondere con un prodotto né europeo, e l'Italia tutt'oggi non con un prodotto nazionale. Siamo insieme a Selex del gruppo Finmeccanica, la stiamo sviluppando bene, nei tempi, nei costi, a non a carico del contribuente, questa è un'altra unicità, e stiamo, mi permetto, toccando il ferro, per lanciare nei primi voli i prototipi che sono sostanzialmente rappresentano il futuro di Piaggio Aero. La produzione in Italia, sì? Sì, sì, noi continuiamo a essere un'azienda italiana, lavoriamo in Italia, produciamo in Italia, siamo italiani e per fortuna che in Italia ci sono persone straordinarie in grado di padroneggiare questo tipo di tecnologia. E avete in programma assunzioni? Beh, guardi, no, ahimè, soltanto ne abbiamo fatte parecchie nel settore specifico dove eravamo, nella gestione di sistema, nell'architettura di sistema, quindi ingegneria molto specializzata. Assunzioni in questo momento non ne sono previste perché la tipologia proprio di diversificazione dell'azienda va in un settore dove purtroppo le competenze sono molto molto rare, quindi non possiamo parlare di assunzioni di massa di sicuro. Senta, io immagino che abbia contatti più o meno costanti e quotidiani ovviamente con i suoi azionisti stranieri. Vorrei capire un attimo la percezione dell'Italia e dei loro investimenti in Italia. Le rispondo con assoluta franchezza. Noi siamo un paese impossibile da capire e impossibile da spiegare. Quindi la prima cosa è vincere la diffidenza. È una cosa che io predico a me stesso, cercare di far capire che in Italia c'è tanto buono, ci sono tante capacità, abbiamo delle eccellenze, pensi alla Ferrari, pensi, io amo la 500, siamo in grado di rimanere nel settore dei motori, siamo in grado di fare prodotti straordinari, Finmeccanica ha delle eccellenze a sua volta. Il problema è far capire il paese del no, e questa è la cosa più difficile, il paese dove chiunque può bloccare, fermare, ritardare, il paese dove, se mi permette, anche il diritto non è certissimo, il paese dove a volte un accordo nazionale viene prevaricato da un contraccordo regionale, il paese dove noi magari andiamo in televisione per il Notav e non si capisce per quale motivo l'Italia non se ne debba dotare, è molto molto difficile. Poi però gli italiani riescono a volte a sopperire a quello che il sistema non ti dà. Io dico, purché non facciano danno, se il sistema si limitasse a non danneggiare, l'italiano ci può riuscire. Sono un ottimista di natura e l'ottimismo mi ha portato avanti. Sono stato nominato 1 gennaio 2009, ho preso i peggiori 5 anni della storia industriale del paese e quindi se sono ancora qui a raccontargliela è che devo avere qualche fortuna da qualche parte, perché non è certo capacità. Però vede, l'Italia può fornire ancora a grandi attrattive all'estero, perché certe tecnologie noi le abbiamo, certe capacità noi le abbiamo. L'italiano non si basa, se mi permette, sul sistema binario 0-1, l'italiano si inventa il grigio e riesce dove altri paesi non riescono. Se soltanto un sistema un po' ci aiutasse e se smettessimo anche a noi di danneggiarci, come siamo bravissimi a fare. Noi siamo un esempio di fare un accordo con Finmeccanica immensamente più grande di noi, Selex S gestita molto bene, ci sta portando competenze che non avevamo, insieme facciamo quella parola che si dice sistema, che è tanto detta ma poco fatta. Se mi permette finisco così. Grazie ad Alberto Galassi, amministratore delegato di Piaggio Aereo Industries, per essere stato con noi. Siamo in chiusura di Focus Economia. Sta continuando il dibattito partite IVA autonomi versus lavoratori dipendenti via SMS. Se volete continuare, adesso la trasmissione finisce, quindi non si può. Mi potete scrivere su Twitter, mi trovate là, Simone Spetia. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Alessandro Iacopini e Mauro Del Corno in redazione. A tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24. La passione si sente.